La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. La settimana scorsa abbiamo iniziato con Dino Pesole un viaggio per ripercorrere la storia dell'Italia repubblicana attraverso le figure dei presidenti della Repubblica dal 1946 ad oggi. Ci eravamo fermati con la presidenza di Antonio Segni nel 1964. L'occasione per questa carrellata ce la dà il nuovo libro di Giuseppe Mammarella e Paolo Cacace, dal titolo Il Quirinale, storia politica e istituzionale da De Nicola a Napolitano, appena pubblicato dalla Terza. La scorsa settimana abbiamo intrapreso una sorta di viaggio nelle 11 presidenze della Repubblica dal 1946 a oggi. Abbiamo parlato di Enrico De Nicola, primo presidente, poi di Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi e Antonio Segni, la breve presidenza di Antonio Segni. In sostanza siamo arrivati al 1964. Oggi riprendiamo il nostro viaggio sempre in compagnia di Paolo Cacace, saggista ed editorialista del Messaggero, autore insieme a Giuseppe Mammarella del libro pubblicato dalla Terza dal titolo Il Quirinale, storia politica istituzionale da De Nicola a Napolitano. Bentornato Cacace. Grazie. Allora, dopo Segni si insedia al Quirinale Giuseppe Saragat dal 1964 al 1971, un socialdemocratico al colle. Anche questo è un segnale di novità. Ma certo, Saragat arriva al Quirinale dopo una elezione molto contestata, ci servono 21 scrutini per poter eleggere il presidente con aspri contrasti. Arriva al Colle con i voti del Partito Comunista, oltre che naturalmente quelli del suo partito, della Democrazia Cristiana, e quindi con una credenziale di presidente di tutti, però in realtà nel periodo del suo settennato si adopererà soprattutto come garante del centrosinistra, insomma sarà il presidente che cercherà in tutti i modi di favorire quell'alleanza tra cattolici e socialisti che per la verità mostrava già primi forti segni di erosione. È una presidenza che secondo la nostra valutazione non lascia delle tracce molto profonde, pur essendo una personalità spiccata e molto forte, quella di Saragat, un grande riformista del XX secolo, ma dal punto di vista istituzionale probabilmente Saragat non coglie fino in fondo le complesse drammatiche trasformazioni che si stanno verificando in quel periodo di un paese che purtroppo si avvia anche verso gli anni di piombo, quindi insomma è una situazione sociale, politica molto complessa e Saragat non mostra nella sua attività di presidente grande attivismo da questo punto di vista, senza arrivare a certe definizioni anche un po' caustiche sulla sua attività. Qualcuno ricorda Gorresio in un libro lo chiamava Don Peppino o telegramma, perché era pronto a fare telegrammi ad ogni piezo spinto, ma in realtà poi interventi incisivi del suo ruolo se ne ricordano pochi. Ecco, siamo arrivati al 71 e si insedia al Quirinale Giovanni Leone. La sua, come sappiamo, sarà una presidenza anomala, e non solo perché Leone fu il primo capo dello Stato costretto alle dimissioni. Gli anni in cui Leone è al Quirinale sono gli anni delle trame nere, delle bombe al treno Italicus e a Piazza della Loggia, dei complotti, come quello della Rosa dei Venti, del golpe bianco di Edgardo Sogno e Luigi Cavallo, ma anche gli anni degli opposti estremismi, con la morte del procuratore generale Francesco Coco e del sostituto procuratore Vittorio Occorsio. Una striscia di sangue che si allunga fino al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Potremmo dire, Paolo Cacace, che Giovanni Leone è in qualche modo vittima di questo clima? Sì, insomma, in una prospettiva storica oggi si può dire che Leone, che peraltro era un grande mediatore, un infine giurista, non riuscì probabilmente a governare la situazione, questo indipendentemente da certi errori anche clamorosi che egli commise durante il settennato e da certe cadute di stile che ebbe nel periodo della sua presidenza. Però in realtà la ricostruzione storica mostra che dopo l'assassinio di Moro soprattutto, quelle colpe di cui addebitate a Leone costituirono un po' il pretesto per cui i due principali partiti decisero di sacrificarlo e lui in qualche modo si tirò da parte in maniera dignitosa. La scorsa settimana ricordavamo che le presidenze sono state anche caratterizzate da personaggi che hanno impresso al loro mandato una svolta anche di tipo diverso, anche tipo caratteriale. E infatti ora parliamo di Sandro Pertini, un socialista puro sangue che scuote le istituzioni. Io sono un socialista tipo Turati, Filippo Turati, Claudio Treves, di questi uomini che adesso sono morti, sono scomparsi. Cioè sono per un socialismo che deve essere basato sulla libertà. Allora, Pertini, un socialista al Quirinale, Cacace. Certo, diciamo che dopo i problemi della presidenza Leone, con le clamorose dimissioni del presidente, serviva un personaggio di grande rigore, e morale, politico, e Pertini incarnava questo ruolo. Va detto che egli lo interpreta in maniera, si può dire, eccezionale, perché stabilisce immediatamente un filo diretto con la gente comune che fa ritornare ai massimi livelli di consenso l'istituto della presidenza. Va detto che la presidenza di Pertini non è esente da errori, basti ricordare l'esordio di Pertini che a un certo punto nell'impasto delle consultazioni decise di affidare un incarico a tre persone, sì. Un incarico a tre che prevedeva due L'Amalfa, Andreotti e Saragat, con un presidente del Consiglio e due vicepresidenti, laddove la figura del vicepresidente, come è noto, non tocca al Quirinale indicarla. E quindi fu una caduta che però veniva perdonata, come furono perdonate successivamente tante cose a Pertini, proprio perché lui riuscì a stabilire questa per la prima volta questo grande contatto con gli italiani, che poi si trovò un canale attraverso le cosiddette esternazioni che nascono con Pertini. Basti ricordare gli interventi di Pertini sull'Irpinia, la sua presenza allo stadio Bernabeu, per la finale dei campionati del mondo, certo. Oppure a Bermicino per Rampi, per il piccolo Rampi. Insomma, è una presenza con delle esternazioni che contribuiscono a dare un carattere ancora più forte all'istituto della presidenza, sì. E che in quel momento ne rivalutano il ruolo. Ora ti chiederei, Cacace, uno sforzo di grande sintesi, perché abbiamo pochissimo tempo, se riuscissimo cogliere i caratteri salienti delle ultime tre presidenze, Cossiga, Scalfaro e Ciampi, in modo da chiudere, è anche Napolitano che però è, come dire, ancora in corso, e dunque se riuscissimo a fare una sorta di collegamento tra queste 3-4 presidenze, così chiudiamo il nostro viaggio. Allora, Cossiga, la presidenza di Cossiga si divide in due fasi distinte. La prima fase è quella della cosiddetta notarile, viene chiamato il sardo muto perché è rigoroso interprete della Costituzione senza nessuna punta originale. Poi, dopo la caduta del muro di Berlino, Cossiga cambia completamente volto e diventa l'esternatore il picconatore per antonomasia, e quindi cambia totalmente, si arriva persino alla minaccia di impeachment da parte del PDS, dell'ex CPDS, nei confronti di Cossiga. perché vuole scuotere profondamente le istituzioni e sostiene che serve un ricambio generazionale. Si arriva a Scalfaro, sì, che viene portato su, come disse Montanelli, da 1000 chili di tritolo, cioè dall'attentato di Capaci, più che dalle sue caratteristiche personali, e però comincia anche la fase di Tangentopoli, comincia la fase della transizione, che ancora non si è compiuta, è una fase molto complicata, con un personaggio controverso, molto fedele alla Costituzione, e una presidenza contrassegnata dal dissidio perenne con Berlusconi, perché c'è la discesa in campo di Berlusconi, ma è anche il momento del cosiddetto ribaltone, termine fortemente osteggiato e negato dallo stesso Scalfaro. Sì. Si arriva a Ciampi, un ex banchiere portato alla presidenza perché proprio per cercare di riconciliare gli italiani, ma Ciampi non solo svolge questo ruolo, ma svolge un ruolo benemerito di riscoperta dei valori della patria, e il suo è un patriottismo, un nuovo patriottismo che si alimenta con la riscoperta di alcuni simboli fondamentali, il tricolore, l'inno, ma anche con un viaggio nella memoria contrassegnato da pellegrinaggio in numerose località storiche, ma anche con un viaggio singolare e importantissimo nelle 100 province, che lo porta a visitare tutte le province italiane, e quindi è una presidenza molto popolare che dal punto di vista politico non è esente da scontri anche abbastanza forti con i governi in carica e soprattutto con Berlusconi. Infine una battuta su Napolitano. Napolitano, eletto da una esigua maggioranza dopo le elezioni del 2006, però si pone l'obiettivo di essere il presidente di tutti, e bisogna dire che in questo arco di tempo ci è riuscito perfettamente, perché ha conquistato un consenso vastissimo tra gli italiani e ha svolto e svolge un ruolo di supplenza, proprio perché mancano i pesi e i contrappesi che dovrebbero garantire soprattutto l'opposizione nei confronti dell'esecutivo. E come vediamo anche in questi giorni ha un ruolo cruciale negli equilibri del paese, un ruolo che porta a un discorso di fondo che riguarda i poteri del Presidente, che sono profondamente cambiati rispetto a 60 anni fa, ma che probabilmente necessitano di una definizione migliore anche dal punto di vista costituzionale, perché siano incardinati in maniera efficace. Molte grazie anche per la sintesi, Cacace, buona serata. Anche a te, grazie.